tardi, lo so, è tardi già. Ti ho più sonno di te, sonnino, sonnino, gli occhi del panda, la voce da orso, sonnino, sonnino, di corsa però, è tardi lo so, è tardi già. Tardi già.